Sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io volevo dire questo, al di là poi del raggiungimento dell'obiettivo, del raggiungimento di una soglia minima di responsabilità civile o del guardare ai disegnamenti come possibile punto di partenza, io potrei suggerire come iperbole la genetica, cioè la possibilità attraverso la genetica, Manipolazione genetica degli italiani. degli italiani, sì, attraverso il Vabbè, manco il controllo dottor Mengele pensava questo. no, Mauro. attraverso il controllo del cariotipo genetico si potrebbe in un certo senso magari isolare un cromosoma di cui oggi non si conosce È l'esistenza. terrificante quello che dice Mauro, è peggio di tutto quello che dice Caporale. Non c'è sindaco paragonabile al suo pensiero per quante scelleratezze faccia nel suo mandato. Cioè, lei vorrebbe fare una sorta di cultura degli italiani perfetti, che non hanno debolezze, non hanno senso di tendenza all'intrallazzo. Ma come farebbe, scusi? No, no, Qual no, è ma la io coppia proporrei, perfetta no, ma io proporrei uno prototipo? screening universale, totale della popolazione italiana, dei nativi e degli epicolori di Cosa prende? identificati. Scusi, lei prende, che ne so, due personaggi mitologici, che ne so, Don Matteo e non so, Sabrina Ferilli in commesse, li mette insieme e fa la coppia prototipo dell'italiano perfetto. Come fa a ottenere questa sorta di mostrum genetico? No, ma voglio dire, la mia è pura disperazione.